Graziella 19, 2 settembre 2024, ore 11. Ieri abbiamo chiuso con l'ultimo ricordo di Verona. Ora, l'ultimo ricordo, in realtà a Verona sono successe altre cose anche dopo, però da te residente a Verona, e quindi stamattina apriamo col trasferimento a Firenze. Allora, un trasferimento a Firenze, io ricordo un trasloco, però ho dei ricordi un po' sovrapposti, perché in realtà il trasloco vero e proprio fu dopo che iniziò la scuola. Io avevo saputo del mio trasferimento a Firenze, cioè a San Donnino, con un trasferimento annuale dal 1 settembre, ma l'avevo saputo intorno al 20 agosto. Molto, molto sotto, perché quell'anno i trasferimenti non uscivano mai e quindi quasi me l'ero messa via che non sarebbe mai arrivato questo trasferimento, invece fu proprio che bisognava partire di lì una settimana. È ovvio che in una settimana, anche perché non ci si poteva eventualmente organizzare prima, perché io avevo chiesto il trasferimento nella provincia di Firenze. Quindi non sapevi dove. Quindi non sapevo dove, poteva essere a Vinci piuttosto che a Marradi. E quindi alla fine fu anche comodo perché lo ebbi a San Donnino, era comune di Campi Bisenzio, ma di fatto era Firenze. Non avevo Ma ci puoi raccontare un po' come la vivesti quest'estate in attesa di sapere se dopo 20 anni cambiavi città, non la cambiavi, la presa della decisione, l'attesa, succede, non succede? Io praticamente non ho ricordi di quell'estate. E quindi penso che non mi agitava neanche tanto questa cosa, ero un po' pronta a quello che capitava, a restare a Verona, se c'era da restare a Verona, anche se dopo quell'episodio lì via di Verona speravo tanto di andarmene da Verona. Ma il trasferimento l'avevi deciso, immagino, a marzo, quando si chiedono i trasferimenti, sulla base, cioè com'è che avevi deciso di Allora, trasferirti? perché se no l'Elena non si sarebbe laureata mai, perché io vedevo la Elena che era sofferente a San Verona, per quanto fosse le piacesse, fosse una bella esperienza, però la diceva lunga il fatto che lei era rimasta in tutti gli anni di Verona, preside a tutti gli anni, era un anno e mezzo, però è un tempo abbastanza ampliato per quanto mi riguarda, sia l'esperienza di Alziamo la testa, come era stata anche l'esperienza di segretaria nazionale dell'Arcigay. In realtà il tempo era breve, era un anno poco più, ma nella mia percezione, per il numero di cose accadute, per i coinvolgimenti, eccetera, era un tempo lunghissimo, mi pareva fosse una vita. E, cioè, però lei in questo tempo di vita non solo era rimasta sempre presidente dell'Arcigay Arcilesbica di Firenze, ma proprio non aveva nessuna intenzione di fare altro, cioè quella rimaneva la parte centrale della sua identità politica, paradossalmente, perché da un lato anche per lei io mi rendevo conto che era un'esperienza molto coinvolgente, era stata quella di Alziamo la testa, però lei viveva una fase della vita molto diversa dalla mia, mentre io quell'altro percorso dell'Arcigay, eccetera, comunque me ne ero venuta via, quindi per me quello era, per lei non fu mai solo quello. Per lei, io credo, il trasferimento a Verona, almeno io così l'avevo vissuto, fu anche un po', fu costretto perché ci fu un momento in cui venne a fare i conti con sua madre. Tanto che io ricordo quando si andò a ritirare l'Elena, abitavo ancora a Verona, si andò a ritirare l'Elena a Pistoia, che praticamente fece di nascosto le valigie da sua mamma, non so bene come. Dopo averci litigato l'ultima volta, io così me la ricordo, con la sua amica Luisa che andò a prenderla in Torvecchia e io andai a Pistoia con Ornella in macchina a prenderla, bagagli e tutto, la Luisa ce la consegnò al casello e così fu il suo trasferimento a Verona. È ovvio che un trasferimento di questo tipo non è che l'abbia mai Non ha deciso. progetto di vita, certo. Ecco, non era un progetto di vita, io di questo ne ero consapevole, quindi a me tanto, io non ero nata e cresciuta a Verona, io ero nata e cresciuta a Recquaro, avevo avuto Padova, Verona era stata una lunghissima fase della mia vita, perché a Verona io ero andata nel 77, a quel punto eravamo il 96, quindi era esattamente 20 anni che io ero a Verona. E si era anche un po', cioè io ero comunque, è vero che mi era accaduta questa vicenda molto bella, importante, di alziamo la testa, ma in fin dei conti io soltanto un anno prima era quando ero uscita da quel mio personaggio, di quella mia vicenda dell'arcigay arcilesbica, dove fra l'altro a Verona io avevo anche un ruolo che andava proprio cittadino. Ora non ho raccontato tutte le cose, ma ricordo per esempio come per me fu importante anche nell'epoca di Verona il collegamento tipo con l'arcidonna di Verona, quindi anche con un discorso, un lavoro anche con altre donne, e questo ho sempre cercato di farlo nonostante le mie carenze, nonostante tutto, cioè ero cresciuta, non ero più la persona che era arrivata a Verona, e dovevo ripartire. Io quel dover ripartire che avevo iniziato con le dimissioni dall'arcigay, non è che alziamo la testa sia stato un ripartire, è stata un'emergenza. Cioè, è stata un'emergenza che è capitata questa cosa, tu comunque hai una storia politica, ti rendi conto che tu, cioè, era partita andiamo a vedere sto cazzo di consiglio comunale, vediamo cosa possiamo fare. Ebbi la fortuna di trovare un gruppo di compagni e compagne, dove queste compagne in realtà era l'Elena, ma di vivere una storia politica estremamente coinvolgente, credo si sia capito da quello che raccontavo rispetto ad alziamo la testa, come per me e credo anche per Elena, il rapporto fra noi due era molto, cioè non era così ben definito qual era la parte politica, qual era la parte personale, qual era la parte affettiva, era un tutt'uno, ma poteva essere quel tutt'uno solo rispetto a quello specifico che abbiamo vissuto. Non poteva essere un progetto di vita per tutta la vita, facciamo alziamo la testa con quei compagni, con quella commissione, almeno io la vivevo così. Io dovevo ancora riprendere la mia strada che avevo interrotta con le dimissioni dall'arcigay. Non sapevo neanche bene io cosa volevo fare, cioè dall'avere un progetto che era quello della visibilità lesbica, un progetto estremamente coinvolgente e che mi ha rovesciato tutta la vita, io poi non avevo costruito mai più un altro progetto. Dicevo ieri sera, quando io mi misi con Elena, per me fu anche un po' un uscire da quella modalità, entrare in un'altra che non conoscevo. E non è che la risposta poi potesse essere alziamo la testa, cioè pigliamo Elena, la trasferiamo a Verona e ricomincio tutto da capo esattamente come se nulla fosse accaduto. Quello che era accaduto, alziamo la testa, era andata così ed era accaduto, ma io vedevo lei che a un certo punto dovevo ancora rifarmi un progetto di vita e volevo guardare avanti, N non mi volevo attaccare né alla vecchia esperienza dell'arcigay e neanche ad alziamo la testa, per non diventare la professionista di alziamo la testa, come non avevo voluto diventare la professionista dell'arcigay. Io ricordo un'intervista di alziamo la testa e stavamo ancora a Verona, perché quando si riuscì un po' a far uscire questa cosa, qualcuno ci cercò. Ci cercò, io non ricordo se era la Rai, penso, che si andò a Milano perché c'era un programma la mattina condotto da Occhini, ecco, Secondo me era Rai 2. e invitarono Alziamo la testa. Questo alziamo, io non ricordo chi di preciso, perché mi sembra eravamo riusciti a far uscire un articolino su Panorama, e da lì, cioè poi cominciava così questa menata. Io non è che fossi proprio convinta, convinta, non mi fidavo di quella gente. Si chiesero 1500 rassicurazioni, ma in particolare quello che noi volevamo evitare assolutamente era che ci facessero fare un confronto fra noi integralisti, cioè a mo' di talk show. No, certo. E poi noi ci rifiutavamo della loggia degli opposti estremisti, erano quelli Esatto, certo, integralisti. non è chiaro Cioè, che che. interesse avevamo? Certo, contemporaneamente avevamo bisogno di promuovere una manifestazione, quindi ci interessava. Non Certo. si disse di no, si decise di andarci. Ci si andò Elena, Roberto, Gianni e io. Fra l'altro, prima eravamo stati a Firenze a promuovere la manifestazione in uno dei nostri giri di promozione di banchini. Arrivò a Milano alle 6 del mattino, ci si parcheggiò lì davanti agli studi a dormire un pochettino e alle 9 ci si presentò. A parte la situazione allucinante, c'erano le maree di gente, come fosse stato un concerto, che erano quelle che cercavano disperatamente di entrare in studio per fare pubblico, cioè non si riusciva neanche a passare e tutti si spingevano Tutte indietro. truccate, vestite, tutte Sì, elegante. Cioè, noi eravamo all'uscita, un po' mi sarà dormito. ci spingevano indietro temendo che fossimo dei loro concorrenti, cioè si durò fatica a parlare con qualcuno. A quel punto si richiedono tutte le nostre assicurazioni, eccetera. Ci spiegano che io c'era anche un altro, non mi ricordo chi, un altro gay di Milano. Non si era neanche ben capito qual era il tema, però per noi era Verona il tema. Spiegano che allora, tipo sul palco dell'intervistato, ci va uno di noi, si decide che vado io, e gli altri nel pubblico. Di nuovo ribadisco, ma non ci sono gli integralisti cattolici, vero? No, no, no, c'è questo, c'è quest'altro, io intervisto. Si arriva, mi siedo lì, dico le prime due cose, mi interrompe Occhini, fa ora diamo la parola al signore che alza la mano. Madonna, era uno degli integralisti veronesi. Cioè, però questo aveva il microfono aperto. È vero che non l'avevano seduto sul palco, ma di fronte al pubblico. Ma io lo sapevo bene dalla storia di Gadlerna cosa voleva dire avere il microfono aperto o non avere il microfono aperto. Loro mica avevano il microfono aperto, loro erano fra il pubblico, là fra l'altro neanche tutti fra il pubblico, No, io vero? ero dietro. Perché erano troppi. E questo che parlavo quando gli pareva, io a un certo punto. Non ricordo bene come andò, ma pensai che non potevo accettare sta roba, che non potevamo, che neanche loro, cioè che cogliona era, avevano detto niente integralisti, ora questi beh, e io sto lì e faccio la statuina con l'integralista. Francesca, non so perché Moro riesco a accenderlo. Quindi studiai un po' la situazione e pensai, me ne devo andare in maniera. Anzi, ce ne dobbiamo andare in maniera plateale, perché loro cosa fanno? Se io dico che me ne vado, certo, le telecamere riprendono da un'altra parte, perché era in diretta, riprendono da un'altra parte e chi si è visto, si è visto. E ancora un po', basta come se fosse finito. Quindi studiai dov'erano le telecamere, ce n'erano due, tipo, e aspettai di aver presente com'erano e mi alzo, cerco di bloccare Orsini e di non uscire mai dalle telecamere. E gli faccio tutta una gran piazzata. Questo comincia. Nel frattempo, loro che erano nel pubblico si alzano praticamente, anche loro spintonando un po' di gente e ci se ne andò alla grande così. Non so perché ho raccontato questo episodio. Sì, per dire di come anche l'esperienza veronese durammo fatica a non diventare di nuovo dentro quel meccanismo dove io ero finita nell'arcigay. No, Cioè, a certo. fare gli antagonisti del movimento, noi quello si fece, ma gli antagonisti del movimento lo si può fare, ma quando tu lo sei in un gruppo, cioè io non ero da sola, mentre la mia ribellione alla trasmissione di Gadlerner la pagai molto emotivamente, Questa perché era una decisione che avevo preso io, quel timore, ecco, ora dicono che sono un'isterica, eccetera, eccetera, la pagai emotivamente. Questa no, cioè questa proprio fu una liberazione fatta assieme perché non ero neanche da sola e mi resi conto che era una decisione che avevamo già preso. Io ho semplicemente fatto come loro si sono alzati da quel posto, io mi sono alzata da quel posto e ce ne siamo andati. È stato alziamo la testa che se n'è andata, non sono stata io. Certo. Senti, ma quindi per tornare alla decisione, quindi te Quindi la hai. situazione era questa, che Certo. non avevamo costituito un gruppo con un progetto di No, vita. È vabbè, ma vero. chiaro, era comunque un'istanza in quel momento, certo, non è che Ed fosse. Elena, men che meno, ma Elena davvero era stata deportata in qualche modo a Verona. E io avevo proprio questa chiara questa impressione Comunque che. questa decisione di trasferirvi, di tornare a Firenze, quindi l'avete presa insieme. Sì, cioè, non mi ricordo se. Beh, sì, sicuramente lei. La si prese insieme, sì, io penso che a un certo punto me l'ero maturata da per me, lei la vedevo sofferente e dice: ma sai, ma io il trasferimento lo danno sempre, Non credo neanche che lei me l'abbia chiesto, anche perché lei poteva sempre andarsene e Sì, rifare. certo. Vuoi un altro caffè? Sì, vai. Cioè, io come mi sia venuta, ma credo che mi sia venuta durante l'anno prima, cioè i trasferimenti scadono a marzo, Sì. quindi figurati, non è che a marzo mi sono svegliata una mattina, probabilmente ci stavo già dopo la manifestazione, eccetera, io si è aperta un'altra Un'altra fase, e quindi e anche quindi della mia vita affettiva, emotiva, e quindi ero perfettamente. Torniamo lì, quando hai avuto questa notizia del trasferimento, c'avevi una settimana di tempo. Sì, San Donnino. San Donnino, la casa l'abbiamo trovata dopo, attraverso, non ricordo neanche di chi era amico Piero. Amici, gente del circolo, insomma. Sì, esatto, più Però anziani. prima ci fu la fase che la stavi raccontando ieri, in cui non si fece un trasloco, che era un non trasloco. Sì, allora, i primi 10 giorni, consapevole che comunque. Non è che potevo mettermi a cercare casa a San Donnino da Verona, cioè dovevo prima trovare una sistemazione a Firenze, magari temporanea, e a quel punto poi da qua sarebbe stato tutto più facile, no? Anche perché poi eravamo in due a questo punto, comunque non andavo nel nulla, cioè io la Firenze era gente comunque la città dell'Elena in qualche era comunque la modo. città dell'Elena dove comunque si veniva spesso, dove che io comunque, da un punto di vista di persone del circolo, già conoscevo da prima dell'Elena, quindi non avevo neanche questa sensazione di essere completamente a traino dell'Elena, non ce l'ho mai avuta. Me la sentivo anche una mia decisione, credo anche a prescindere dall'Elena. Non è un caso che poi, quando ci siamo lasciate, io non ho mai pensato neanche un istante, Ritornare. allora torno a Verona, proprio, non, cioè. Ero già entrata in un'altra fase di vita e la mia vita era qui a quel punto. Comunque, quello che si fece fu, intanto si trovò questa sistemazione che Maurizio fu generosissimo, fra l'altro Maurizio era il vicepresidente del circolo, che mi ricordo nel corso all'inizio almeno, quando Elena venne a Verona, lei era molto preoccupata di lasciare il circolo in mano a Maurizio, perché Maurizio aveva determinati strumenti e non si sapeva mai bene. Poi era nuovo, io lo conoscevo poco. Poi sì, non lo conosceva, era Ah, sì, arrivato da poco, uno che aveva fatto la scelta di essere gay in età adulta, che veniva dalla Casa del Popolo di Rifredi, dall'Arci, quindi. Sai, era una tipologia di gay che rifuggiva le nostre conoscenze di gay, sia le mie che le sue in realtà, poi io non lo conoscevo, era il vicepresidente, quindi lei era sempre molto, no, devo andare perché ora vediamo, perché allora mi devo mettere d'accordo con Maurizio, era tutto un affare così. Obiettivamente, quando si presentò questa necessità, io non lo so, per questo la gestì lei, ovviamente, il rapporto con Maurizio, ma io credo che lei manco gliel'abbia chiesto. Veniamo a casa. Anche perché sapevamo avere una casa piccola. Ah, venite da me, sono tanto contento. Cioè, si dimostrò il Maurizio che era. Cioè, con una generosità, un cuore, che quindi già andavamo da Maurizio. Cioè, lui senza mai farci fretta, per 2 mesi ha dormito su sto divanetto, troppo corto per lui. Ci faceva da mangiare tutti i giorni, cioè ogni cosa che lui potesse pensare, che noi desideravamo, il giorno dopo c'era, ma manco cioè una generosità commovente a pensarci anche ora, ma anche allora, non è che fosse una cosa che noi davamo per scontato assolutamente. L'altra cosa, l'abbandono di Verona, ecco, io mi ricordo questa cosa che io in realtà venivo via con questa. Cioè, specie dopo la vicenda che mi era toccata, ho proprio sperato di avere il trasferimento, però non è vero che io a Verona lasciavo il nulla. E ricordo che feci la festa, Parti per Tozzo, che io ho tante foto che mi sono rimaste, c'erano ancora i cellulari, quindi stampate, e dei flash, dei ricordi, perché io credo mi sarò ubriacata subito. Questa festa, Parti per Tozzo, raccolsero i soldi e credo che compravano la lavatrice con i soldi del Parti per Tozzo, una roba del genere. Raccolsero 500.000 lire, una roba così, organizzata da Roberto e dalla Bonomi, che si mise al bar a fare quello che sa fare la Bonomi, la festa, e quindi si invitava un po' la gente che avevo sia frequentato negli anni che frequentato lì. Per tirar su soldi si fece questa asta dove io mettevo in vendita dei miei ricordi personali. Ovviamente era una cosa per chiedere l'offerta. Tra i miei ricordi personali, di cui disfarci per il trasloco, c'era anche la sagoma che Gianni aveva fatto per il difensore civico, che era una mia foto a grandezza Ma non è quella naturale. che c'hai Sì, che ora adesso? è anche caduta, è da qualche parte. Cioè, Che ero ristacchissimo. io in una foto il giorno in cui fui eletta segretaria nazionale dell'Arcigay, quando dalle scalette del Cassero cercavo di fermare la stampa perché c'era quelle che dovevano scappare e mi ricordavo che era stata ripresa. Gianni se la trovò e la fece. E quindi anche quella si mise in vendita. Chi comprò quella? Ornella, perché Ornella con tutte le sue... Ho parlato poco di Ornella anche perché quella è la sua storia, eccetera, ma Ornella è sempre stata di fuori come i cavalli. L'altra volta ne parlavo tanto di Ornella, Ah, ecco, non sì, mi ricordo più. ha voglia Comunque, di poi ho Ornella, mantenuto i rapporti con Ornella, per sì. come potevo mantenere i rapporti con una persona come Ornella, perché appunto io poi pagavo ancora il mio debito a 100.000 lire al mese, eccetera, perché lei non pensasse che io la volevo No, no, fregare. ne parlavo tanto di Ornella. E quindi venne anche lei. Allora, prima fece il discorso alla Biagini, il discorso di Ornella alla Biagini fu: se la tratti male, t'ammazzo. Poi venne anche la Rosa. Senza ridere, Senza ridere, seriamente, seria. seria. Poi venne anche la Rosa, quella che è morta l'altro ieri, che a quel punto, visto che partivo da Verona, lei aveva questa cassetta che aveva registrato al convegno di Firenze, seguendomi anche al cesso, che si era tenuta cara evidentemente, e la regalò a lei, perché tanto io sarei partita, stavo con lei, regalò questa cassetta, come se questa cassetta rappresentasse una forma di proprietà nella mia vita, la regalò a lei. E Ornella comprò questa sagoma, dandoci anche parecchi soldi, decisi di tipo 50.000 lire, 100.000 lire, parecchio insomma. Noi si chiedeva, faceva l'asta partendo da 2.000 lire, 3.000 lire, no, no, lei offrì tanto e vinse questa sagoma. Questa sagoma ora ce l'ho io perché fu una tarma negli anni, perché si mise in mente che qualora avesse avuto bisogno, intanto non la voleva in casa, che se andava qualcuno la nascose dietro all'armadio, ma proprio che anche se si apriva l'armadio nessuno la potesse ritrovare, perché era una prova che lei era lesbica, immagino. Ma poi si mise in mente che se avesse avuto bisogno di ridipingere l'appartamento, avrebbero dovuto spostare l'armadio. E come faceva con quella sagoma? Veniva fuori la sagoma, bruciala. No, ma è un peccato, ti devi venire a riprendere sta sagoma. Io non so, accadde che una bella volta, macchina a Verona, mi ripigliai la mia sagoma, me la riportai a casa. Secondo me, forse che abitavo già a Bologna, mi Ma ripigliai questa sagoma. meno male perché sarebbe stato un peccato perderla. Sì, comunque, vabbè, anche se la bruciavano, non mi sarei neanche, non mi ricorderei neanche questa vicenda della sagoma, No, me no, la ricordo certo. perché poi alla fine questa sagoma mi ritornò, ma questa addirittura quando mi trasferì a Bologna. Quindi lei tutti gli anni di Firenze per 10 anni l'ha tenuta come se avesse una specie di Bomba prigioniero in elettronica, sì, camera, ma... la sagoma nascosta là. Quindi si fece questa grande festa, io ubriacai, non credo che non feci lo spogliarello, perché ero troppo ubriaca, ma ballai sul palo, ecco, feci un po' di mia show, e quindi lì l'addio si era fatto e ci si concentrò su Firenze. Io non me lo ricordo il viaggio per venire, mi ricordo solo che si era da Maurizio a festeggiare, a mangiare, eccetera, e telefonarono la sera in cui noi si era arrivata da Verona, che gli avevano picchiati alla festa dell'Unità, quelli di Rinascita, quindi Sì, che quindi. quello l'ho raccontato ieri sera. Arrivata qua, andai a scuola, a San Donnino, era una scuoletta media, quelle piccole, c'era un po' tipo come era stato Castelnuovo ancora come dimensionamento. Difatti dopo la scuola media di San Donnino l'accorparono successivamente alle elementari, che era di fronte, che invece era una direzione didattica a parte. Quindi in queste medie, e fu anche lì, secondo me, un altro periodo, almeno finché io sono stata a San Donnino, quindi per 2 anni, un po' sopra le righe, per me almeno, come era stato Verona, perché per me era un po' tutto nuovo, come mi era stato tutto nuovo, alziamo la testa, questa modalità diversa di fare politica, eccetera. Intanto questa modalità di alziamo la testa era diventato anche un mio patrimonio. Siccome quella modalità, io credo che caratterialmente, quando si era a Verona nel comitato alziamo la testa, il tipo di caratterialità di Elena aveva pesato nel determinare quegli equilibri, proprio anche in senso, lei era toscana, noi siamo tutti veneti, quindi un po' con quella parlare, non dirsi mai le cose in faccia, questi in particolare Roberto, infatti per questo avevamo queste tensioni annue da anni io e Roberto, perché tutte e due avevamo quella modalità che lui magari dava noia a quella cosa di me, ma non me la diceva proprio vaffanculo, basta far così. A me dava noia quella modalità che lui aveva di dare le chiavi del circolo a tutti che andavano là a scopare, ma non glielo dicevo Roberto, no. Facevo tutta una dietrologia per cercare di fargli capire, senza mai dircelo. Quel comitato, alziamo la testa, funzionò perché non si usarono più quei metodi. Erano stati distrutti fin da subito, un po' da come era Elena, e su questo devo dire, ebbe anche un effetto positivo Gianni, che non era assolutamente uno con dietrologie, No, cioè, ecco, filtravano, mi sembra anche. però. Nel momento in cui io poi arrivo a Firenze, Elena continua a esserci nella mia vita e non è che io non ebbe difficoltà ad andare al circolo, perché io non volevo andare al circo di Non Firenze, volevi? no, cioè non mi sembrava una cosa, probabilmente erano, non lo so, anche dei bachi miei in testa, perché ci sta, però neanche del tutto. Del tutto inventati, in fin dei conti, anche se il tempo passato mi sembrava tantissimo, ma non era tantissimo, eravamo nel 96, io fino a 2 anni prima esattamente ero stata segretaria nazionale dell'Arcigay, mi ero dimessa anche con circoli come quello di Firenze, che un po' lo percepivo che non è che l'avessero vissuta tanto bene. È vero che era partita un'altra stagione, ma io ero timorosa di ritornare, in fin dei conti, l'Arcigay Arcilesbica di Firenze faceva parte di quella medesima associazione, non c'ero più ritornata a Verona, cioè io poi sì è vero, ero stata nel comitato Alziamo la Testa, ma credo di essere stata, forse tutti si spinse perché il comitato Alziamo la Testa fosse altra cosa da Arcigay Arcilesbica e non comparisse praticamente mai Arcigay Arcilesbica. Arcigay Arcilesbica a Firenze era un'altra storia, però per me era sempre Ma quindi te Arcigay Arcilesbica. comunque appena vi siete trasferite siete subito andate Sono a andata a vivere da Maurizio, vivevo con la presidente, il vicepresidente del Non circolo, potevi fare. cioè non è che E potevo com'era? Com'è stato dire. l'impatto? Perché te comunque venivi da una realtà molto diversa, no? Com'era sto. L'impatto io l'ho vissuto, cioè ho imparato a conoscere gente che prima conoscevo, però durante Alziamo la Testa, quell'anno lì, si fecero anche delle iniziative col Circo di Firenze, tipo in particolare una festa. Secondo me è stato dopo la Finendo la manifestazione. primavera dopo la Sì, manifestazione, in nella quell'anno in primavera del cui, 96. esatto, proprio perché avevamo assunto nella città questo ruolo di essere la realtà antagonista rispetto alla destra, no? Antagonista rispetto al Ma dov'era PD. la sede nel 96 quando sei arrivata? Era Via del No, Leone. nel 96, lei parla di una festa che si fece a Verona, a Quinzano, che è un quartiere periferico di Verona, si fece una festa di 2 o 3 giorni, non mi ricordo, in un Sì. parco, e il Circo di Firenze venne tutto a Sì, lavorare a loro questa festa. gestivano, perché non sarebbe stato capace, gestivano il cibo. Si trovò una specie di roulotte attrezzata da far cucina, da fiere, su verso le montagnole. Quando si scoprì che c'era da andare a ritirare questa specie di roulotte, si scoprì che non era norma, era un trasporto speciale perché non ci passava dalle strade. Era fuori misura, credo sia, no, io non ci andai, credo ci andò Nemmeno Maurizio, Gianni, andarono a pigliare sta roulotte, credo sia stato un eventone, hanno bloccato tutte le strade veronesi perché era un trasporto speciale della roulotte. Divertentissima sta festa. Sì, Nacquero connubi straordinari tipo Moira Bonomi, che erano uno spasso insieme, tutte strafatte da mattina a sera sempre, poi sono rimaste amiche. sì, cioè quindi vennero le Camille. Con il fidanzato di Roberto che era innamorato delle Camille e poi fece le Camilline, fece un gruppo Ma chi anche sono aveva... le Camille? Le Camille era questo gruppo che avevano fatto di drag del circolo, che era Antonio di Imola, era Stefano, quello la cui triste storia si è raccontata ieri di Londra, e Sandro, che io quello l'ho conosciuto poco perché quando io arrivai a Firenze lui era già tornato a casa sua, che poi è morto di fatto da AIDS, hanno detto d'altro, ma di AIDS a casa dei suoi in Sardegna, quindi erano loro tre. E io l'avevo vista alla FLO la prima volta, quando stavamo ancora a Verona, li trovavo molto divertenti. Io non ho mai amato il drag, per come io l'ho conosciuto, cioè io ho conosciuto il drag da molto giovane, quando ho iniziato ad andare a locali con Ornella, ma era il drag delle pomitrozzole, che avevano un locale a Parma. Le pomitrozzole erano capitanate da, come si chiama? Da Platinetta, quella che poi divenne Platinetta, di una volgarità, fra l'altro erano estremamente, se la pigliavano con le lesbiche perché noi eravamo trasandate, battute, queste Sì, lesbiche. erano, cioè, ma erano molto, no, un po' goliardi, un po'. Scimmiottavano le Sì, donne, non era che la mia erano un po' sì, sessiste, ma sì. sì, erano molto Politicamente, sessiste. insomma, poco politicizzate poi alla fine, no? Alla fine sì, è che loro erano nate a fine anni 70, quindi era una delle prime cose, in qualche maniera mi ricordo di aver fatto un litigone una volta al Circo di Verona, che secondo me, ecco, metti che c'era già Roby, nel periodo in cui c'era Roby presidente, che decisero di portare le pomitrozzole, di fare uno spettacolo con le pomitrozzole. Io proprio glielo impedì. Glielo impedì fisicamente, andai, gli feci degli urli, avrò maltrattato Roberto e tutto, ho detto no, cioè voi portate a Verona le pomitrozzole, io me ne vado dal Circo di Verona, non me ne vado da segretario nazionale, io mi disconosco, cioè non le fecero venire, era quella roba lì. Quindi quando vidi la prima volta le Camille, scoprì che era un'altra cosa, che esisteva un'altra cosa al mondo. Sì, della generazione della Pantera, Politicizzati. politicizzati. Cioè che, per esempio, la cosa secondo me fantastica loro era che si facevano i costumi loro, ma con la carta, facevano le parrucche con i bicchierini. Ah, Cioè, beh, certo. era un altro mondo, quindi figurati, le Camille andavano alla E grande. soprattutto prendiamo per il culo se stessi. Sì, cioè, era quello che ci stava. E quindi vennero le Camille a fare lo spettacolo. Che fra l'altro anche lì vennero i vigili perché era tardi, perché era presto. Noi andando avanti, questo spettacolo lo Venne fecero. tutte le forze di polizia possibili e immaginabili, Sì, vennero tutti. certo. La polizia, i vigili, quelli dell'igiene. Quelli dell'igiene fu divertentissimo perché c'era appunto questa specie di baraccone fatto dal Circolo di Firenze dove c'era Maurizio. Si scoprì che era l'unico che aveva il libretto sanitario. Qui arriveranno Io sicuro. ce l'avevo perché facevo la cameriera, ma l'avevo dimenticata a Firenze. Ecco, E, cioè, e quindi c'era solo lui. però non è che bastasse solo lui, anche perché non mi ricordo che cosa facessero, ma in realtà il cibo che andò per la maggiore fu la panzanella, che a Verona non avevano mai sentito nominare. Quindi tutti volevano questa panzanella, venne un monte di gente e dopo un po' finì la panzanella. Quindi non so con cosa l'avessero fatta, cosa abbiano recuperato. Sta panzanella aumentava sempre di più, gli infilavano dentro di tutto, eccetera. Arriva quello dell'ufficio igiene, c'è la Moira dietro, c'era dell'insalata, volevano infilarci dentro anche l'insalata, secondo me, per riempire sta Beh, ci sono anche panzanella. altri piatti, non è che c'era solo la panzanella. Sì, però io ricordo sta panzanella. La Moira stava lavando, pulendo, sopra alle cose dell'immondizia, lì vicino all'immondizia, st'insalata. Arriva quello dell'ufficio igiene e, no, qua no, pulire l'insalata vicino all'immondizia. Ma come pulire? Le sto buttando via io l'insalata nell'immondizia. Certo, sono nell'immondizia, poi butta via l'insalata, quindi gli andò male. Poi ci fu Gastone, che era, lui era stato messo a friggere qualcosa. Già non era capace, era già tutto butterato, si era bruciacchiato tutto sto Gastone. Lui non aveva il libretto sanitario. Quando arrivò questi si disse via via chi non ha il libretto sanitario rimase solo Maurizio, ma Gastone era scemo, rimase lì con le sue cose, arrivò quello non so, andò bene che non ci fece la multa. Disse ma lei ha il libretto sanitario? e Gastone, e vorrà dire che io per fare il volontario per la mia associazione devo avere il libretto sanitario? Io sono un volontario, eh? Questo secondo me, purtroppo, anche per quello dell'ufficio igiene, fu quello che andò di dietro, trovò la Moira, quando la Moira buttò l'insalata, cioè finì così il controllo dell'ufficio igiene, ha detto, però state attenti, state attenti. Però in quel contesto, anch'io, io feci niente lì, perché io poi non sono tanto adatta, ero molto preoccupata invece per il bar dei veronesi, perché i veronesi dovevano gestire sto cazzo di bar, ma sto cazzo di bar era un disastro, anche e soprattutto perché il primo giorno piove che Dio la mandò e portò via il bar dei veronesi, cioè, si era rovesciato tutto. Ho questi ricordi, però in tutto questo delirio ci fu questa amalgama fra il circo di Firenze. E quindi c'erano già dei presupposti, diciamo, per il tuo inserimento nel circolo. Quindi per me, quando arrivai, fu venire in quel circolo dove, che comunque aveva delle modalità con le differenze eccetera, ma molto più simili a quelle che io avevo sperimentato nel percorso di Alziamo la Testa, che non quelle che avevo sperimentato nell'Arcigay, che anche lì poi, tra virgolette, perché prima di essere segretaria nazionale dell'Arcigay sono stata anche del circo di Verona e basta, quindi anche lì noi però facevamo le feste, facevamo questo tipo di attività, è dove io ho inventato la pesca, che dopo mi sono portata dietro la vita. Sempre, certo. Cioè, senti, quindi... ma in quel primo periodo, hai detto, è stato un periodo abbastanza appunto fuori di testa, quei primi due anni. Fuori di testa, coinvolgente su modalità più similari e comunitarie, simili a quelle che avevo vissuto. Hai fatto delle amicizie in quel periodo? Amicizie tue personali, relazioni nuove al di là dell'Elena, diciamo? Ma secondo me era ancora troppo mescolato, quindi anche questo per me, ecco, questo per me fu un po' un problema, perché la relazione non sapevo, ci misi molto tempo, anzi secondo me le relazioni mi si chiarirono quando non stetti più con l'Elena, cioè dove erano mie, dove, e poi magari erano le stesse, però con un percorso diverso, erano diventate mie, e questo io so che irritava molto l'Elena, perché poi io non sono una che ha facilità a stabilire relazioni, e mettermi a competere con l'Elena per stabilire relazioni sono perdenti in partenza, cioè non... Quindi io non sono quella che ha facilità di relazione. Uno, per esempio, lei, specialmente l'ultimo periodo in cui siamo state assieme, io sapevo le cose che la irritavano, però non è che una... Io ma fino a quando siete state insieme? Fino... 2000. 2000, quindi in realtà durò altri 3-4 anni, non poco, cioè non è stato il trasferimento, credo che poi il nostro rapporto sia arrivato a esaurimento per anche per differenze, perché poi tutto arriva a esaurimento, non credo ci sia stato un motivo particolare, però capivo anche dove, per esempio, certe cose lei le irritava, in particolare questo le irritava, che lei non riusciva ad accettare la mia difficoltà a stabilire relazione, a darmi i miei tempi, cioè per lei era un dramma se un giorno lei voleva uscire e io dicevo, no guarda, io sto a casa. Come stai a casa? Non ti dico che devi uscire con me, perché anzi è meglio se tu è, ma devi uscire, non puoi rinchiuderti a casa. Ora io per come sono fatta io, cioè a volte non ce la facevo, ero andata a lavorare, io sono stata a casa e a volte uscivo davvero perché stessi zitta, perché cioè era questo. E poi fra l'altro, siccome io avevo difficoltà a rapportarmi, era uno dei motivi per cui bevevo in compagnia, cosa che ora ho anche abbastanza smesso di fare, perché ora sto in una situazione affettiva molto diversa con una persona che è peggio di me, e quindi sono io che devo dire Titti usciamo, Titti chiama qualcuno, Titti, cioè che devo cercare di trascinarla, non è che lei mi aiuta tanto, però questo fa sì che io non ho questo problema, quindi cioè, ho anche smesso di bere perché sono in compagnia e devo, cioè quell'aspetto io non ce l'ho più, ma allora ce l'avevo, probabilmente la mia incertezza di venire da Verona, Elena era una persona estremamente inserita, una ciacciona dappertutto, quindi E poi io ero anche curiosa di vedere, quindi a me non dava fastidio il fatto che lei fosse una cicciona e che io non potevo tenere il suo passo assolutamente. E non solo non potevo tenere il suo passo, io avevo anche 15 anni di più. In quella fase di età contano, perché per lei non era ancora in grado all'epoca di fare un vero e proprio progetto di vita, doveva sperimentare, mentre io avevo anche, cioè, ero rimasta con la necessità chiusa l'esperienza Arcigay, l'esperienza di Verona, non diciamo più Arcigay, l'esperienza veronese, perché a questo punto, oltre al dover reiniziare dopo politicamente o non politicamente, rispetto a quella che fu la mia esperienza come segretaria nazionale dell'Arcigay, ma quella erano 5 anni, 5 anni su 20, ma io avevo tutti quei 20 anni. E anche trasferendomi a Firenze, cominciai ad avere una sensazione che non avevo mai avuto prima, di perdere pezzi della mia vita, che aumentasse ulteriormente la discontinuità. Io prima di trasferirmi a Firenze non avevo questo timore, perché ero stata a Padova, ero stata a Verona, avevo una forte identità, non dico territoriale, perché non ho mai avuto un'identità territoriale, ma io ero di Verona, io ero Graziella di Verona, non ho mai avuto il dubbio, io sono Graziella di Recuaro, che poi è andata a Padova e che poi è andata a Verona. Io ero Graziella di Verona. A Firenze non ero più niente, non ero più Graziella di Verona, ma non ero Graziella di Firenze. E quindi quando mi chiedevano di dove ero, cominciavo a dire, no, perché io sono di Recuaro, però sono nata a Valdagno, però poi ho abitato a Padova, però poi ho abitato a Verona e ora abito a Firenze. Sì, ma di dove sei? Questa sensazione di non aver più radici, che non è una bella sensazione. Io me la sono raccontata per tanto tempo che anzi era una liberazione, era una libertà non aver più radici. Se devo dirlo ora, che poi mi è rimasta, cioè io poi ho convissuto per sempre con questo, convivo tuttora con questo, non ho mai superato, è un dato di fatto. Non è né bello né brutto, è un dato di fatto. E forse se proprio devo dire se è più bello o più brutto, direi che è più brutto. Perché avere comunque, è come avere una comfort zone, che sai che comunque c'è, anche se tu non la raggiungerai mai più, ma c'è stata. E non averla, non c'è mai stata, era finta, non era la tua comfort zone, era in prestito, era di passaggio. E ecco, questo devo dire. È forse l'aspetto più negativo che ho vissuto, quel sottotraccia che non mi faceva star bene del tutto. Contemporaneamente ero anche contenta perché vedevo invece Elena che aveva ritrovato il suo essere lì, almeno in quegli anni, cioè, o quantomeno non aveva più il problema di dover fare avanti e indietro da Verona, eccetera. Elena è andata a vivere dove in realtà aveva sempre vissuto, anche l'anno di Verona, perché appunto, ripeto, la decisione io anche l'ho presa per quella e anche perché volevo venire via da Verona, perché non ne potevo, volevo rompere, volevo cambiare. Però la cosa bella invece fu che mi ritrovai a vivere un contesto politico che pur essendo arcigay io lo vedevo anche se da lontano che era più simile alziamo la testa, questo mi permise di viverlo anche a me, cioè nel senso che era la cosa per cui mi pigliavano per il culo e si arrabbiavano, io trovai questa formula, io vengo però sono militante semplice, cioè proprio perché era per allontanarmi da quella modalità, Vi perché poi, trovavate una volta a settimana al ma no, noi si era sempre là. circolo Sì, di Via del Leone? di Via del Leone durò poco, però sì. Poi, fra l'altro, io ero molto sballinata a quel periodo perché Trasferimento a Via Sanzanopoli fu per l'ultimo anno del 2007, quindi del 97, del 97. quindi un anno e mezzo si è rimasto Via del Leone. Io ero molto sballinata, No, non un anno e mezzo, sì, vabbè. sì, un anno e poco più, perché comunque io avevo una. Quando si venne via, io da qualche anno stavo facendo psicoterapia in maniera abbastanza costante e mi avevo aiutata molto, soprattutto a dirimere le tensioni che avevo con mia mamma, eccetera. E quando decisi di venire a Firenze, allora non si poteva pensare, la faccio online, e quindi dissi: ma io ho intenzione di andare a Firenze. Questa era anche una con cui mi trovavo bene, mi incoraggiò anche. va gli ultimi 2 mesi, facciamo invece di una volta a settimana, facciamo 2 volte alla settimana, però rimane fatto, cioè lo si approntò, si cercò di concludere quel percorso, però io quando venni a Firenze avevo perso anche quel riferimento, quindi sicuramente ero sbalestrata. A Firenze cominciai a fare una vita che era similare a quella di Verona, però dal mio punto di vista, essendo anche fuori da quello che era la mia comfort zone veronese, per quanto potesse essere precaria, era anche fisicamente più faticosa. Abitavamo a San Donnino, le distanze erano diverse. Abitavate a San Donnino, perché poi ecco Beh, infatti. perché poi dopo Maurizio si stette lì un paio di mesi, poi si trovò casa, era attaccata alla mia scuola, la casa a San Donnino. Mi ricordo, l'Elena si comprò il motorino e si girava questo motorino, perché poi a Firenze venire con la macchina era un problema. Certo. Si dovette fare il trasloco, fu anche quello il trasloco vero e proprio dopo aver trovato questa casa che coinvolse tutti quelli del circolo a Verona a caricare sto furgone. Venne Maurizio e mi ricordo nella notte, dopo aver caricato tutto, perché a quel punto lavoravo, non è che potessi andare là 3 giorni, sto furgone tutto ballonzolante, lei e Maurizio davanti col furgone, io di dietro con la macchina stracarica. Mi ricordo sull'Appennino, a quel punto era stato anche novembre, c'era un vento che tirava, era ancora la vecchia via dell'Appennino. E vedevo questo furgone che ogni curva si inclinava tutto, diceva ora cascano, ora si arrovescia. Si arrivò alle 3 di notte, ci aspettavano, dalle 9 di sera ci aspettavano per smontare questo cazzo di roba che avevamo portato. Amici, compagni, vai. Sì, c'era Paolone, Aldo, il circolo. Beppe, il circolo, sì. Sì, il circolo. E si fece questo trasloco. A quel punto si viveva a San Donnino, io avevo la scuola lì. Poi lei figurati, quel periodo era quando, come si diceva ieri, lavorava da Maurizio. Io poi per me Firenze fu molto faticosa, l'ho sempre considerata anche prima di venirci a vivere, anche prima di conoscere lei, la città più faticosa dove quando io giravo per l'Italia, per me la città più faticosa dove venire era Firenze. Perché? Perché a Firenze erano faticosi, si camminava tantissimo. Un traffico non si capiva, non riuscivo mai a togliermi di mezzo dai viali, perché ero abituata che i viali girano intorno alla città e io ogni volta mi perdevo. Ma sai, all'inizio quando venni a stare qua, intanto capitava che dovevo andare a prendere qualcuno in stazione. Io credo i primi 2 mesi mi perdevo sempre. Non riuscivo ad arrivare in stazione, non riuscivo a pigliare, saltavo di girare, credo, Sì, lì verso via via dei Martelli, talenti. via, sì. Di girarli dentro, la saltavo e mi trovavo sui viali. A quel punto, come faccio a tornare indietro? Lì alla fortezza, un po' un casino, non capisce nulla, è solo un senso, uno che non conosce. E diceva: io vado avanti, prima o dopo mi riporterà qua. E finivo regolarmente a Piazza Michelangelo, cioè, quindi uscivo a pigliare qualcuno in stazione e dopo 2 ore io non ero ancora tornata e non ero mai arrivata in stazione, giravo per Firenze. Ora, non sembra, non sembra, ma per me fu estremamente faticoso. Cosa succedeva? Che essendo faticoso mi stancavo molto. Quando mi stanco molto, troppo, oltre le mie energie, poi sto male. Il mio star male in quel periodo si esplicitava, che quando proprio non ne potevo più, diventavo intollerante, non andava più bene niente, litigavo con lei, ma magari su una cazzata, mi arrabbiavo e allora io me ne vado e scappavo. E E quindi dove andavi? andavo a piedi di solito, lungo come si chiama la via lì, sulla Pistoiese, scappavo da San Donnino e andavo a piedi verso Firenze sulla Pistoiese. Poi mi stancavo, perché dopo un po' è lontanino, mi passava un po' il nervoso, a quel punto o tornavo indietro o aspettavo in grazia che lei venisse a cercarmi col motorino e portarsi indietro. Quindi lei lo sapeva, credo che lasciasse anche perdere, non diventava neanche matta e dopo un po'. Ma in questo tempo voi avevate, oltre a tutta questa situazione, cioè questa vita molto collettiva, avevate anche una vostra intimità, eravate anche ogni tanto voi due, ci sono degli episodi che ricordi della vostra relazione che prescindono, diciamo, in qualche modo da questa vita tutta comunitaria e politica, oppure no? Un viaggio, cose vostre. Ma io sai che mi ricordo poco di questo, forse un po' preoccupante, perché mi ricordo quel viaggio che si fece, che stavamo a Verona, mm-hmm. il giorno di Alziamo la Testa, ma era appena iniziata la nostra relazione, ma evidentemente dopo forse non c'è più stata molto questo aspetto, perché c'era sempre qualcos'altro. Meno le vacanze di solito le facevate insieme? Ma le facevamo le vacanze, avevamo mai soldi. Io non so neanche se... Si andava un po' in campeggio. Ecco, cioè ma tipo 3 giorni. Mi ricordo un anno si andò in campeggio con la macchina del tuo fratello a Principina Mare. Che c'erano queste cicale. Quindi evidentemente questo aspetto secondo me per me lei non c'era mica tanto. Cioè era tutto molto segnato da... Poi vabbè io per esempio mi ricordo che mi preoccupavo molto per la sua tesi quando riprese a farla. Lei l'ha ripresa a fare nel... Boh, lo sa lei. Nel 99 era già passato 3 anni. Ah, ok. Sì, però cominciasti che si stava a San Donnino, mi ricordo. Sì, nel 99 si stava a San Donnino. Che c'era questo... Ogni tanto c'era qualche tragedia, tipo che si cancellava tutto, tipo Dio, tipo... Cioè, mi ricordo questo. Poi mi ricordo quando venne mio nipote, Marcos... che quindi lì si impoggia, però in realtà poi tutta la gestione è sempre stata molto collettiva, credo anche della mia relazione con lei, perché poi lei proprio non sapeva stare, e questo invece per quanto a lei pesava il fatto che vedeva le mie difficoltà eccetera, a me pesava il fatto che lei non poteva stare una sera, una, senza avere gente intorno, e soffriva molto magari se la tal amica non la sentiva, l'Alessia Vallini, ma non l'ho sentita una settimana che non la sento, eccetera, no, perché devo, perché... E era molto, meno io la vivevo così, era troppo per me, cioè io che... un conto è se fai delle cose, ero molto sbalestrata, perché un conto era stare a Verona, dove lei in qualche maniera, lei pur essendoci stata poco a Verona, molto rapidamente sarà fatta anche... delle amicizie che erano più sue che mie, tipo quelle di Interzona, perché Interzona li si conobbe assieme, quindi lei che ha più facilità ovviamente c'entrò di più in relazione. Figurati io a Firenze se ero in grado con lei, se si conosceva qualcuno insieme, ovviamente lei gestiva la situazione. E a me pesava, io bevevo quindi per coprire il mio disagio, questo faceva sì che la situazione peggiorasse anche con lei. Mentre quando facevamo le cose politiche per il circolo, magari si andava, si faceva le cose, si organizzava il COBAGAL, quando si facevano queste cose invece andavamo d'amore d'accordo, perché comunque avevamo dei ruoli, ognuno al proprio, delle relazioni ognuno alle proprie. Io non sono mai riuscita davvero a Firenze ad avere una serie di relazioni mie e basta, cioè sono stata un po' costretta dopo che non siamo più state assieme. Però anche lì lei è stata molto presente, perché aveva questa preoccupazione che io poi in realtà sto da sola, mi rinchiudo, questo mi fa male. E questa roba credo che è un po' quella che poi ha fatto sì che il rapporto, no, secondo me, non si è, poi proprio sostanzialmente anche due momenti diversi di vita. Quindi lei doveva, quell'esperienza che io avevo vissuto come segretaria nazionale dell'Arcigay, che mi aveva comunque formato, lei la stava vivendo a Firenze in altri modi, con dinamiche sue, lei aveva 15 anni meno di me, quindi se io facevo il rapporto, quello che lei viveva come emotività, come vita davanti, eccetera, nel 96, era quello che avevo vissuto nell'81, che era quando stavo con Ornella, avevo imparato un po' a conoscere quel mondo. Quando lì sì, io allora mi facevo a quell'età, mi sono fatta le mie amicizie, il giro di Radio Popolare Verona, poi a un certo punto di lì a 2 o 3 anni sono andata all'Arcigay, avevo un'altra età e io anche mi sono ritrovata, mentre lei venendo a Verona ha trovato gente quasi coetanea sua, perché le relazioni che io avevo costruito erano tutte relazioni sia con le lesbiche che con i gay, che con la realtà circostante, con l'Arci, la Rossella, eccetera, tutta gente che aveva mediamente 10 anni meno di me, erano più vicini a lei generazionalmente che non a me, e questo l'ha facilitata. Io invece mi sono ritrovata qua con tutta gente della sua età, quindi avevo non 15 anni più dell'Elena, almeno 15 anni più di tutti gli altri, a parte forse Maurizio, che era a metà strada comunque, non è che Maurizio avesse la mia età. Di gente della mia età io non ne ho conosciuta mai a Firenze, proprio zero. Sono stata proprio a quel punto, già l'avevo fatto di mio a Verona, ed è stato di nuovo fatto in maniera molto più forte, uno sbalzo generazionale, perché io non so poi come venivo percepita, io avevo sempre la sensazione che alla fine venivo percepita come loro, cioè non veniva, e quindi quando io mi lagnavo, perché suor maltrattata da tutti, perché prima ero veneta, un po' per malosina come veneta, 15 anni di più, per me molto spesso erano dei ragazzini, quindi ero un po' pallosa, un po' rognosa, ma era anche naturale, perché avrei voluto vedere un'altra sbalzata da Verona della mia età inserita in quel contesto, se era meno rognosa di me, secondo me era peggio. Ma però, perché rognosa chi è che ti considerava rognosa? Ma io stessa, cioè, però capivo che mi potevano solo considerare rognosa, tipo no ma perché andiamo così lontano, no ma fatica a camminare, no ma, cioè, a meno che non ci fosse una forte motivazione politica, perché allora andavo. Mm-hmm. Quindi ecco, da un punto di vista personale alla fine ho trovato poi un equilibrio. Intanto vivendo il rapporto con Elena molto molto, ancora una volta, dentro l'attività politica. Ed è vero, se non mi ricordo manco che siamo mai andate una volta in vacanza, ci saremmo anche andate, lei si dice qualche volta in campeggio, però secondo me non se lo ricorda tanto neanche lei. In bianco hai fatto che andassi dal tuo fratello un mese. Io? L'hai fatto. Io perché non ci sarebbe soldi per andarci tutti e due. Però, ok, quello che dico è che non è che allora io sono stata prigioniera qua, no, ma la domanda era sì, del qualcosa rapporto, avete sì, fatto sì, insieme, in ferie, eccetera, costruito momenti, non ci serviva soldi, ma non credo fosse quello il motivo, credo che ci sia una serie di elementi, ma non è per... cioè, sto cercando di dire come io l'ho vissuta, certo, come certo, io la certo, leggo ora. Ora, io quando ero lì, secondo me manco capivo questa roba, sentivo solo un disagio e allora scappavo e andavo per la Pistoiese e poi così mi passava un po', poi tornavo e poi magari trovavo la dritta di dire ah, ma ora è ora di andare al circolo, ah, ma ora c'è da far questo, poi magari arrivava Maurizio, allora ci si divertiva, allora poi c'era da fare il backdoors, allora poi c'era da fare la vlog e tutte queste attività. Poi ci fu il circolo, ci fu il trasloco via San Zanobi e quello secondo me fu un altro momento estremamente collettivo a cui anch'io mi sentii di partecipare. Senti Marco, arriviamo appunto al momento politico. Ancora voi eravate dentro l'ARCI, non eravate Azione Gay e Lesbica, giusto? Quindi mi racconti di quegli anni, ora, perché ne avete fatte milioni, quindi tutte, però ora stai nominando il backdoors, la flog, quindi una serie di cose che erano legate comunque all'attività principale. Che cosa succede in quegli anni? Cioè, quali sono gli aspetti fondamentali politicamente e poi anche le altre cose? Quindi, ma sai, voi... rispetto a quello ho dei i ricordi non proprio precisi, perché in qualche maniera quando io... dicevo sono militante semplice, ho sempre anche cercato di astenermi dalle scelte politiche, cercavo, poi sicuramente non lo facevo, avrò messo, cioè non hai partecipato alla... permettermi sul COPE, devi parlare del COPAGAL e lì non ti sei astenuta per nulla, che io mi ricordi. Non mi sono astenuta per... allora cos'è? Parliamo del COPAGAL, quando a un certo punto l'Arcigay si spaccò. A parte, io non ricordo bene le date di quel periodo, perché prima si spaccasse l'Arcigay, prima del congresso dell'Arcigay, si fece l'operazione Nada. Sì. L'operazione... quell'assemblea che vi si raccontava ieri fuori registrazione, in cui furono stabilite le regole del congresso e il congresso dove nacquero arcigay e arcilesbiche. Nel mezzo non si fece questa cosa. Perché fu evidente a chi era andata a quell'assemblea nazionale, io ricordo che andai anch'io ma non volli partecipare. E aspetta, quale assemblea nazionale? Quella di preparazione del congresso dell'arcigay del 96. Okay. Quello precedente era stato nel 94, prima del Pride del 94, dove io ero stata rieletta, riconfermata segretaria nazionale, poi lo ero stata per pochi mesi, non c'era mai più stato un congresso da quel momento lì. Al 96 arrivarono al congresso, che fu un po' poi l'essere arrivati per i corti, il gruppo di donne che era entrato, era in aperto conflitto. Di questo ci parlerà anche Elena nella sua tesi, nel suo lavoro di ricerca. E quindi a Firenze comunque loro... una cosa che io apprezzavo molto del circo di Firenze, fin da quando l'avevo conosciuti prima di star con Elena, era che loro facevano tutte le cose molto seriamente, compitavano tutto, facevano i documenti, facevano, era molto seri su questa cosa. Quindi anche in questo frangente, cioè di fronte, fu chiaro che c'era un'operazione dall'altra parte. Era anche chiaro che in qualche maniera il congresso l'avrebbero perso, però si decise di fare una riunione clandestina rispetto al resto del movimento che si chiamò Operazione Nada, perché l'Operazione Nada venne fatta nel paese dove era nata Nada, sull'Appennino di al Gabbro, di nascosto da perché tutti. Perché uno del Gao di Pisa conosceva questo posto dove facevano biodanza, che c'erano posti per dormire, una palestra dove ci si poteva riunire. Fu un caso, non è che si voleva fare perché c'era nata Nada. Però no, ci certo, piaceva sì, dire sì. Operazione Nada, era l'Operazione Nada. Questa operazione Nada si fece cioè senza promuovere questa operazione Nada, di fatto fu che c'era il circolo di Firenze e il circolo di Pisa, Verona. E c'erano tutti quelli e poi sono usciti. E sono usciti. Forse anche Torino. C'era Torino e penso ci fosse anche Catania, forse. C'era anche qualcuno del Mieli. Questa roba proprio clandestina che nessuno sapeva che c'era, mi ricordo, allora lì andai anch'io, perché quello pensavo che era un'altra cosa, era un contro arcigay. Ma quello era fatto a che fine? Era fatto al fine di preparare il congresso dell'arcigay, di confrontarci se potevamo portare una posizione. Esatto. E al congresso dell'arcigay e che cosa... tre giorni, secondo me, belli ma di fuori come i gamberi, dove io ricordo la mia sensazione, che poi fu quella che mi fece decidere di non andare a quel congresso, perché fu un confronto vero. Secondo me, poi di fatto è quello da cui nacque il COBAGAL, quella riunione, vero, sincero, politico, altamente politico. C'era già una lettura del neoliberismo, secondo me, in quello che si faceva in quel momento lì. Credo sia stato il momento in cui poi... modalità da collettivo, scusa, sì. Non dovrei intervenire, ma che ne so, l'assemblea per terra, i gruppi di... cioè, non ha niente a che fare con le modalità congressuali. No, beh, immagino. Cioè, senso, ma anche certo. Poi, sia come contenuti che come modalità, quello che poi si è portato avanti nel tempo, che è quello che inizialmente ha dato poi origine al COBAGAL, poi è stato quello che a Firenze con col Social Forum si fece il seminario raccattando di nuovo questa gente, che poi è quella che ha fatto Facciamo Breccia. Cioè alla fine c'era una continuità, c'è stata poi una continuità. Ma chi c'era di che poi avete continuato a frequentare, oltre a fiorentini? C'era qualcuno? C'erano i veronesi, sì, che sono sempre rimasti. E poi vabbè, il circolo di Pisa ha avuto una vicenda sua molto distruttiva dopo, quindi loro sono spariti a un certo punto. E però sono gli amici della Monica. Sono gli amici della Monica, poi per altra via. Sì. Però voi ancora non lo sapevate. Quei due che hai conosciuto al compleanno della Monica, Francesco e Marco, erano due di questo gruppo di Pisa. E poi più di tutti loro, poi dopo sono entrati, c'era più di tutti noi veronesi, perché poi torinesi sì e no. Poi c'erano quelli di Sassari pure. Sì. Mentre sono rimasti molto vicino a Facciamo Breccia, al finale inizio Facciamo Breccia, i catanesi. Sì. Cioè quindi c'era insomma questa galassia, diciamo, che formò il COBAGAL, però gli devi raccontare cos'è il COBAGAL. Però il COBAGAL fu dopo. Mi devi dire quanti uomini e donne, che proporzione? Lì a quel punto era saltato tutto, perché quello era frutto della rivoluzione all'interno dell'arcigay quando era misto. Cioè lì arrivarono i circoli, ognuno con le proprie capacità o non capacità, perché mica tutti poi erano sullo stesso livello, mica tutti erano come Firenze, però il peso politico delle donne secondo me pesava di più del peso politico. No, ma anche proprio, cioè, era il tutto informale, ma più o meno, ma quali erano i numeri? Cioè poteva essere 60 uomini. No, troppi, noi non eravamo 60 uomini. No, è percentuali. Mi sa, cioè, un po' più, più, era un po' di più, più, più. Ecco, 60% uomini, 40% però, donne. Noi di Firenze un po' in una sofferenza su questo ce l'avevamo. Sì, perché invece Firenze uomini, mentre qua ne erano sì. Sì. Quindi, no, fatti. Cioè, quello secondo me che comunque era rilevante. Io mi scazzai su questo a un certo punto. Sì, difatti io e lei su questo ero molto più tollerante. Ero molto... Vabbè, perché veniva un'altra storia. Ma non solo, sì. Cioè, guarda che questa cosa durò fino al Social Forum di Firenze, quando Elena voleva organizzare come azione gay lesbica una cosa per le lesbiche in specifico. E io invece ero per organizzare quella cosa che poi si è fatta. Cioè una cosa che non fosse, anche per un motivo molto banale, che quella cosa sulla cilesbica l'aveva bella organizzata la cilesbica, sì. Sulle lesbiche. Comunque, quindi... torniamo a noi, all'operazione Nada e porta la nascita del Copagal. Cobagal. Che... Cioè il nome era preso da Cobas, comitati di base arcigay-arcilesbica. Sì, cioè copiato dai Cobas, quindi, che non so chi lo inventò il nome. Gigi Malaroda. Era le Cobas. E io mi ricordo che lì si discusse, ma io pensai, qua sono bravi, c'è tanto da fare, ma al congresso dell'arcigay non è il posto dove si vincerà, quelli massacrano, non ci sarà niente. Non capivo come avrebbe potuto funzionare un coordinamento nazionale. No, però aspetta, c'è un passaggio. No, ma il coordinamento nazionale nasce dopo. Io non ho capito. In quella riunione si fa una riunione, ci si confronta, però si l'obiettivo scopre era, delle cose vicine. Era preparare una posizione comune per andare a questa assemblea. Sì, che non si preparò. Cioè questo congresso, che non fu preparato. Che non si preparò perché noi portammo poi un documento di noi e Pisa, non di tutta la galassia. Okay. Perché io ebbi chiaro questo. Però qual era, dovendolo sintetizzare, poi magari non... Allora, era una lettura... Qual era, diciamo, le due anime, appunto? Da una parte c'era la vecchia, c'era l'Arci, ma guarda, qual era la principale era quello critica? Che era già uscito come contrapposizione quando io mi ero dimessa, quella era rimasta. Allora, una posizione, quella dell'arcigay, dove obiettivo unioni civili, perbenismo, eccetera, senza più analisi, dove più che movimento era un sindacato dei gay, dove si poteva iscrivere anche il prete gay ancora un po', no? Perché, e dall'altra parte c'era invece chi voleva fare movimento, quindi faceva riferimento a comunque analisi politiche, comunque le unioni civili, stiamo attenti, che è una normalizzazione. Ma in quel momento c'erano delle specifiche lotte? Era proprio le unioni civili. Le unioni civili era la questione. Una questione che ritenevamo molto pesante. Non perché tanto, la portavano come... Noi venivamo da Firenze come donne, si era presentato il documento nel 93, ma comunque in quell'area ci pesava molto che l'associazione fosse tutta realizzata su quello, con degli accenti anche familisti, e sulle elezioni di Franco Grillini, cioè e poi c'era questo di Parlamento. Dove esatto, per un movimento era un'altra cosa. Era teso a mandare Grillini in Parlamento, che basta, non c'era mai andato e comunque nessuna trasparenza, tutta una questione di soldi, insomma, quello che era sempre stato. In realtà non c'era nulla di nuovo. No, avevamo una lettura però marxista, c'era alla fine. No, avevamo di sottofondo una lettura marxista. Esatto. Quello che appunto era cambiato rispetto a prima, secondo me, è che questa nuova generazione in movimento non era una nuova generazione in movimento di lesbiche, ma di tutto il movimento, che in quel momento lì si era... Che era la generazione della Pantera. Esatto. E io credo di aver avuto lì anche proprio la sensazione, era quella generazione, non era la mia generazione. E per me fu una sofferenza decidere di non andare a quel congresso. Primo perché... temevo che comunque, io era troppo poco che me ne ero andata, e temevo che la mia presenza sarebbe stata letta chissà come anche dagli altri. Eri troppo esposta. Ero troppo esposta ancora, poteva proprio anche essere Io questo temevo, e lì ricominciai a ragionare da sola, cioè, quindi anche questo fu un po' il mio percorso in solitudine di decidere di non andare, eccetera, che avrebbero usato me per distruggere loro, facendo e magari riuscendoci, perché alla fine, conoscendo Grillini e quel tipo di bestie, l'avrebbe fatto passare come una mia manovra di usare i ragazzini per ritornare e farlo fuori. Mm-hmm. E secondo me non era così lontano dalla realtà il mio pensiero. E quindi non hai deciso, quindi di, non deciso andarci, di non andare. Il Cobbagal... Subito dopo si perde il congresso. Quindi voi andate a questo... Andate cioè, a questo cioè, loro vanno al, gli altri vanno al congresso. Io sto a casa, mi ricordo al quando... Congresso, al congresso si forma l'arcilesbica. Ah, ecco. Fu il congresso... Cioè, diciamo, il congresso del 90... L'arcilesbica poi ha fatto un suo congresso, sì, per nascere, ma si decide che nascono due associazioni. Ok. Congresso cioè, della, si decide che nascono siamo... tante associazioni. Questa fu l'idea, ecco, io... non vera. Siamo, aspetta, nel 96... autunno, mm-hmm, sì, quindi io ero a Firenze da pochi mesi. Però tu avevi, mi ricordo perfettamente che tu avevi collaborato sia nei contenuti che nella, sì, stesura, sì, al documento non si portò. Questo lo feci, cioè io su questo ci credevo, questo percorso, e non è che non avessi niente da dire, infatti io poi sono rimasta nel circolo, certo, e ho continuato a fare cose. Quello che non mi convinceva, e avevo anche ragione, che quel congresso non era il luogo dove far passare questa battaglia. Si sarebbe perso, perché quel congresso era finto, l'avevano già costruito a Bologna, l'avevano comprato, era un congresso che faceva schifo. Andare là significava solo esporsi e rischiare di essere distrutti. Quindi a quel congresso nascono ufficialmente arcigay, arcilesbiche? Quello io non c'ero, e quindi io... Ma in breve ti posso dire che la proposta fu presentata da Grillini. Era non che nasceva Narcigarci Lesbica, ma che nasceva una confederazione di associazioni, di cui due erano Narcigarci Lesbica, una fa conto era, non mi ricordo, perché poi quell'altra non sono mai nate. Quindi una era, che ne so, specifica sulle unioni civili, una era sugli archivi, una... Era una presa di culo. Ma era una finta, per dire, era chiaro che si faceva... Le donne non le vogliamo più. Lì non c'entra un cazzo la storia di Graziella, cioè c'entra, ma lo dico perché tu capisca te, ma non c'era, lei non c'era appunto. No. Per me fu una cosa molto molto molto dolorosa il congresso, al di là che ci si divertì tantissimo, perché io nel frattempo avevo un altro percorso a cui Graziella non partecipava, che era quello che aveva portato a Bologna nel 96 la seconda settimana lesbica, che era fatta da gruppi separatisti e non separatisti. Quindi noi eravamo un gruppo di lesbiche dentro la Cicacella molto legato politicamente a quel punto, della mia generazione. Io, Titti e Simone da Firenze, c'eravamo tutte noi, c'era la Alessia, c'era Valeria, c'era la Moira, eccetera eccetera, e poi c'erano altri di Bologna, altri di altre città, ci vedevamo molto, facevamo un sacco di riunioni, io c'ero molto legata a quel gruppo e mi ci riconoscevo anche molto, solo che molti di loro fecero un'altra scelta rispetto a me, cioè fecero la scelta di fare arcilesbica. Io l'ho vissuta come un tradimento, perché io avevo molto chiaro. Poi la storia ti ha dato ragione. La storia mi ha dato ragione, non lo so. Avevo molto chiaro che era un'operazione di Grillini che aveva bisogno di un avallo delle lesbiche. Loro ci si infilarono dicendo: sì, è un'operazione di Grillini, fa tutto schifo, ma tanto noi poi ce la gestiamo. Ma tanto noi poi ce la gestiamo. E invece non nasci così, a mio parere, e poi te la gestisci. Però un po' avevo ragione, un po' io ero molto legata al circolo. Quindi. Di fatto ci furono tre mozioni a quel congresso: la mozione di Grillini, la mozione arcilesbica, che però non proponeva una, e la mozione nostra, né la nostra né quella di arcilesbica, di fatto noi sapevamo tutte e due avremmo perso, quindi proponevano più analisi che non una fattività, sì, sì, sì. No? E comunque si misero d'accordo fuori, ma proprio visibilmente nel corridoio, sul fatto che le arcilesbiche avrebbero votato, cioè le arcilesbiche, una parte delle lesbiche avrebbero votato, ma la maggioranza, la mozione di Grillini, tanto che la Titti e Simone, io la trovai una cosa scandalosa, che era firmataria, prima firmataria della mozione arcilesbica, votò l'altra mozione. No, vabbè. E lì fu veramente per me emotivamente molto pesante, perché per me era un contesto molto importante quello delle lesbiche, però io rimasi proprio ferma, anche litigi, cose eccetera, Però di fatto invece il documento di Firenze e Pisa, noi l'unica cosa che ci interessava era proporre la nostra analisi, che era un'analisi che partiva dal Chiapas, insomma era una roba così. Fatta a più mani, fra l'altro. Fatta a tante mani, quindi... era tipo 10-12 paragrafi, proprio analisi di fase. Era, sì, sì, sì. E quindi ci si scrisse tutto a parlare con dei mezzucci anche, perché c'erano gli interventi limitati. Certo. Quindi, che ne so, quello parlava a nome di quello, a nome di quella, per presentare, perché noi volevamo presentare tutti i paragrafi. E si fece, ci insultarono in tutti i modi possibili. Ci fu l'intervento più famoso, che era quello di Alessio De Giorgi di Pisa, che è quello che ha fatto chiudere il circolo di Pisa, non sto a raccontare questa storia, che me lo ricorderò per sempre, che c'aveva il nostro documento così, era il momento del suo intervento, e diceva: non stiamo a perdere tempo con questo ciarpame ideologico. Ah. E ciarpame ideologico è una cosa che ci siamo ripetuti per... Certo, diventava l'essere familiare. È diventato l'essere familiare, chiaramente. Lo siete pure rivendicato, immagino. Sì, tantissimo, all'infinito. Si fecero cose fuori di testa, perché poi noi avevamo questa modalità un po'... che ci hai conosciuto anche te, sempre certo. Comunque a metterci le cazzate in mezzo. Poi eravamo tanti, perché il circolo era grosso in quel momento, quindi noi avevamo tanti delegati. In più Pisa c'avevano un bar... E quindi loro quello... avevano tanti delegati, c'era anche delle deleghe a noi, quindi sì. C'era questa cosa e non si schiantava da ridere, perché diceva: ora parla Donata di Pisa, che era la Donata Bianchi, che però aveva queste cazzate qui. Io ovviamente questo non va tanto nella bibliografia della Graziella, quindi non va detto, se no mi chiedono i soldi ancora indietro. Nell'organizzazione feci la paracula, andai da Dartenuk, che era il factotum di Grillini, e gli dissi: Roberto, c'hai tanto da lavorare, ti aiuto a dare i buoni pasto. E quindi davo buoni pasto anche a tutti quelli senza delega dei nostri, li imbucavo nelle camere, si dormì in cinque in una camera, dormendo per terra, eccetera. Alla fine del conoscere. Alla fine del congresso, io, mentre Grillini parlava in un circolo di giornalisti, io feci una cosa veramente oltre per quel contesto, c'avevo una, non so chi me l'aveva data, c'avevo una pistolina che sparava delle palle di carta. Mi misi da mezzo giornalisti così e gli sparai la pallina in faccia mentre lui parlava, lo presi e lui, mi ricordo, rimase impassibile, non mosse un muro, ma cazzate così, insomma, si cantava cori da stadio contro napoletani, cioè... Io mi ricordo che ormai sarà proprio allo sbraco completo, insomma. Io mi ricordo che tutto contesto. Ciò lo vissi da casa. Sai come, non so, quello che hai... Senza cellulare ancora. Senza cellulare, da casa, seduta così. Io credo, non riuscivo neanche a guardare la televisione, a leggere, niente, aspettare che tornassero. Che poi durò tanto, tipo 3 giorni. Durò tanto, tipo 3 giorni, e non tornava mai quella sera. Arrivarono tipo alle 2 di notte, sfatti. Penso che non solo tu venisti da noi, forse ti portasti anche dietro qualcuno, non mi ricordo, proprio distrutti. Io mi aspettavo che sarebbe andata male, perché è il motivo per... Ma proprio così male, no? Quando mi raccontarono, cioè, proprio così stronzo Grillini, no? Mi ricordo che era incazzata come una biscia, alle 3 di notte pigliai il telefono, chiamai a casa di Grillini, che mi rispose pure, gli disse: Franco, sono Graziella, sappi che da ora in me hai una nemica, e gli misi giù, e da allora non ho parlato mai più, alle 3 di notte, quello fu la mia partecipazione al congresso, dopo c'è stata la crisi. E poi a te ti fece sbroccare la storia dello statuto? Ah, dopo, sì, perché non fu lì, mamma mia come sbroccai. Poi arriva il nuovo statuto dell'Arcigay. Avevano cancellato tutte le mie... Io, c'era ancora lo statuto che vigeva da quando io l'avevo costruito, certo. Uomini, donne, tutto maschile, femminile. Avevano tolto tutta, solo maschile, perché erano solo gay. Che poi la storia portò che si iscrissero comunque anche le donne, sempre all'Arcigay. E cioè era la cancellazione dei talebani. Io mi ricordo di scrissi una lettera, una delle mie lettere aperte, incazzata su questa cosa, che non so forse se c'è ancora da qualche parte, io non ce l'ho. Cioè, proprio accusandoli di essere talebani, era l'epoca in cui... Se ne sapeva qualcosa. Esatto. Si cominciava a parlare. Cioè, questo intervento sulla lingua, dove tu elimini dalla tua lingua, dal tuo statuto, le donne, come se non esistessero al mondo. Cioè, potevi anche fare questa cosa, ma allora lo rielabori. Cioè, non lo puoi fare così. Qualche stronzo che si mette lì pedissequamente, era abbastanza lungo lo statuto perché aveva Ma subito lo fecero. Sì. Cioè, a togliere... Quindi era abbastanza chiaro, diciamo, qual era l'obiettivo politico. Sì, era per fuori... Secondo me, quando si tornò a Firenze, c'era già questo statuto. Non lo so se c'era già, e quindi veniste anche questa novità che invece bufaliere del tutto. Senti, ma torniamo al Coppagalle in tutto allora, questo. Allora, dopo questo, succede questa cosa e è evidente che non si può più stare in quella cicheria. Certo. Non ci vuole neanche per quanto riguarda non le donne. Nemmeno, sì. Ogni circolo dovete fare le sue... Cioè, si trovò di fronte a questo. Io credo anche chi non aveva critiche, perché doveva costruire due circoli. Esatto, dove c'erano le donne, a questo punto le donne non potevano più tesserarle, costringendole a fare tessere arcilesbica, con un'arcilesbica che era ancora inesistente, appoggiata su Bologna, però senza avere la struttura, perché Crigini aveva il suo ufficio. Io credo che la Titti De Simone non ebbe mai un suo ufficio e poi nacque dopo, quindi... alla fine le tessere risultarono in tutta Italia, continuarono a fare tessere arcigay, dicendo donne, poi non si tesserano. Dopo un po' c'erano però anche delle relazioni dove riuscì ad arrivare l'arcilesbica, fecero un altro circolo, che era il circolo arcilesbica, spesso anche un po' coesistente. Sì, perché poi l'arcilesbica fece un suo congresso di nascita. Ovviamente. Esatto, certo. Quindi poi magari ci arrivò, però di fatto cioè, fu un caos totale. Dovunque, certo non aveva problemi classic, tanto non era politico, continuava a fare le tessere, poi gli fecero il circuito 1, cioè, quelli erano trafficanti di tessere e di soldi, quelli erano alla fin fine, non è che ci fosse un progetto politico, il progetto politico era mandare Grillini in Parlamento perché facesse la legge sulle unioni civili, questo si poteva stringi dire, era in tutto ciò però mantenere saune, mantenere questo, mantenere tutto l'ambaradan dove ci vivevano quel centinaio di persone legate all'arcigay, che erano tutte queste deleghe che venivano a votare perché quello era il loro lavoro, questo era quello che rimaneva dell'arcigay. Poi rimaneva anche quell'altra cosa a livello locale, una presenza che spesso ti garantiva anche, erano ancora anni dove c'era stato da poco il primo Pride, quindi avere un arcigay a Trento comunque aveva anche un senso di una specie di punto di riferimento per... Sì, per dire, nel 96 ci fu il terzo Pride che era a Napoli e fu molto bello. Dal 97 non ci fu mai più un Pride unitario. Sì, perché cioè, quella cosa era scoppiata. Certo. A mio parere era scoppiata... in mano a Grillini, però fu anche il motivo per cui secondo me lui poi riuscì a farsi reggere, perché tutte le energie delle arcigay andarono su questo, cioè fece fuori tutte l'opposizione interna, fece fuori tutte le discussioni, non si perdeva certo più tempo a fare un'assemblea e si trattava di come dare... Come racconta sto Coppagalle? E quello andava avanti le arcigay. Questi circoli a questo punto... al perso, che era rimasto e che si era riconosciuto sostanzialmente in quel documento e nell'operazione NADA si pensò, si fa qualcos'altro. Ora, noi, almeno io la pensavo così e mi riconoscevo... Si fece un'assemblea credo a Firenze. Sì, e cioè non è che ci piacesse l'idea di fare un altro arcigay, cioè io avevo questa impressione, la proposta fu da parte di Gigi Malaroda di fare tessere in comune. Non fare più tessere arcigay. No, noi non potevamo quell'anno, perché era troppo tardi, non fare le tessere. Cioè, o ci scioglievamo come associazione, invece noi volevamo fare un passaggio un po' più graduale. Quindi anche nel 97 non avevamo tessere arcigay arcilesbica, però ci ritenevamo fuori. Si era costituito questi comitati di base arcigay arcilesbica, ci si vedeva per conto nostro, facevamo le cose di discussione, di progettualità. Ma a Firenze non c'era anche arcigay? Cioè, arcigay no, ma arcilesbica sì, quindi era complessissimo. E arcilesbica era nel circolo. Era nel circolo, eravamo sempre noi. Era la Moira, era la Valeria. Okay. Sostanzialmente, perché ci fu anche questa che stavano nel direttivo insieme a noi nel circolo. Io manco c'ero nel direttivo, c'era lei di donne, la Mara probabilmente, no la Mara forse no, no la Mara non c'era. Non c'era più. Comunque nel direttivo, cioè il direttivo del circolo di Firenze, alla fine arcilesbica loro due c'erano, la Valeria e la Moira, ed erano anche i segretari nazionali dell'arcilesbica. Sì, quindi aveva un rapporto molto complesso, perché con l'arcilesbica cercavamo di non rompere. Certo. Io non so come si riusciva poi a gestire questa. In sostanza, questo Copacabana è durato un paio d'anni facendo assemblee, sì, itineranti, anche interessante, anche molto interessante sul analisi, piano culturale, d'analisi politica, eccetera. Però tutti gli altri fecero una scelta a cui non aderimmo, cioè di fare una seconda tessera in comune. Cioè facevano la tessera Cigarci Lesbica con la copertina Copacal. Poi smetto di parlare, noi non ci sentimmo di aderire perché ci sentimmo troppo pressati a esserne i leader. Sì. Cioè ci sembrava, sì, che da noi si chiedesse di essere... E noi non, sì, volevamo un'altra associazione in cui c'era, sì, il capo responsabile. La richiesta era quella, era che era una richiesta diventasse... poco consapevole, no, però era molto però pressante. Era l'aspettativa più che la richiesta. Sì, certo. E quindi noi si disse no, noi non si fa così. Così durò un anno, tessera e finì lì, mantenendo secondo me poi una relazione politica con questi circoli in maniera differenziata, seconda, comunque cosa... forte. Comunque molto forte, perché poi ogni volta... Poi ogni volta fai la 3 giorni, lo fai sempre, sì, in un posto dove anche dormi, quindi si creava un gruppo sempre più amalgamato. Certo. Sì, fu famosa quella che si fece a Firenze quando Roberto era stato nella fontana di Ripredi senza acqua e Davide rubò il vaso della nonna, le ceneri della nonna, cos'era? Una statua di ambra, al cinese. Cinese. Si fece questa cosa... non al teatro di Ripredi, al foyer del teatro di Ripredi, perché lo gestiva Maurizio, con questo Copacal, quindi c'era anche parecchio. No, poi si fece quella molto bella, fu anche quella a Venezia, sull'isola di Sant'Erasmo, se non agriturismo di compagni. Quella fu bella, sì, ma quella di Firenze, io ricordo poi questa cosa, per cui, a parte Roberto Ar, briaco come una tegola che si tuffò sulla fontana di Ripredi di testa. La fontana di Ripredi. Dentro, se c'è ancora nel giardino, proprio davanti al teatro, c'è una roba tipo da... Sì, la fontanella. Sì, sì, sì, sì, che peraltro non c'era acqua. No, vide come per quello dico fontana, sì, sì. Lui la vide come fontana, ci scapuzzò dentro. Poi non si trovava ad andare a mangiare tutti. Alla fine, non so chi venne questa idea brillante, la Dorata Bianchi, mi sa, perché aveva dato il suo nome, che c'era lì vicino, c'era un cinese. C'è ancora, credo, sì, su, sì, c'è. Sull'altro lato, sì, vicino, sì, al Flora. Si prenotò questo cinese, ma io per 50 persone. Ora, quando mai un cinese riesce a gestire una cena per 50 persone? Però loro per soldi ci pigliarono. Noi s'andò. Ora, non c'erano neanche i tavoli per tutti. Ci accatastarono l'uno sull'altro, non riuscivano a prendere gli ordini e non arrivava mai la roba. C'era anche altra gente che prendevano... Il numero di Milano sarà un... Era tutto molto divertente nel Copacabana, era tutto molto interessante, però... Stringi, stringi, c'era un po' la nostalgia del vecchio Arcigay quando si era tutti assieme, questa voglia di... cioè un po' una situazione, guarda, per cui trovo ora alcune analogie con quello che vedo che ora sta un po' vivendo Gianni. Cioè che per me non c'è più, per qualcuno è rimasta questa cosa, quando facciamo breccia, quando c'erano le assemblee nazionali dell'Arcigay, quando, e quindi anche Firenze era il circolo in quel momento, fra l'altro si aveva via San Zanobi, quindi chi era venuto lì vedeva questa sede che era talmente bella e con un grosso potenziale, che non aveva nulla da invidiare al Cassero, meglio, era tutta un'altra cosa, però... ma... Cioè era una sede vera che pochissimi avevano e anche vissuta con queste sedie dipinte da noi, con tutte le varie... Te ne vai, Biagini? Sì, ma ti sento. Ah, e quindi questa storia secondo me andò avanti per un paio d'anni, questa storia di Copacal. E poi anche loro smisero perché non ebbero più l'elemento coagulante che in qualche maniera era stato il circo di Firenze, ma secondo me ebbe comunque degli effetti, per esempio sul circolo di Torino, secondo me ebbe l'effetto che ci furono le donne davvero da quel momento al circo di Torino, perché il circo di Firenze, il vero coagulante è che era riuscito a gestire. E quando dico così non mi riferisco a me, io quello avevo abbastanza uno sguardo esterno, cioè io trovavo ammirevole come avevano gestito la frattura all'interno del circolo con due lesbiche che erano nell'arcilesbica, con tutto quello che comportava, come riuscirono nel nome di non so cosa a non confliggere su questo, a continuare l'attività, e questo bene o male si percepiva all'esterno, lo percepivo io, ma lo percepiva anche, che ne so, l'Elisabetta di Padova, che pure era nell'arcilesbica, quindi che poi uscì, però cioè, per dire, è vero, l'altra c'era Padova anche molto, sì, cioè, quindi io piglio una birretta. Guarda, ce n'hai infinite, perché io non avevo capito che te l'aveva presa anche la Francesca, e quindi c'hai tipo 6 tenens. Ah, ci picchia, vado avanti fino a domani. Sospendiamo oppure riusciamo a... Forse la Francesca è meglio se sente, no? Sì. Ancora torna, sta andando, ma anche se sta 2 minuti... Ah, ok, no, no, ecco, mi chiedevo se magari mi facesse un problema... il vuoto, ecco, il silenzio in questo... La Francesca non è evidentemente venuta prima da andare, sì, là, a questo punto viene direttamente dopo la presa. Lava, sì, sì, ha detto che andava direttamente là. No, questo non lo immaginavo. Beh, certo. E quindi nulla, cioè, per quanto mi riguarda, in tutto ciò, credo che vedere come avevano gestito questa cosa, come io in realtà l'apprezzai, mi mise anche un po' l'anima in pace, questo discorso militante semplice. Mi sentivo di più di dire il mio parere, perché mi rendevo conto che il mio parere cominciava davvero ad essere uno dei tanti pareri. Io non ero stata più protagonista della vita di quell'associazione nazionale, e in qualche maniera era stata messa una distanza. Questo mi aprì un po' una nuova fase di relazione col circolo. E secondo me in quel tratto forse fu anche un periodo, dico così a ricordo, però credo che di quel periodo ho poca, non ci sono elementi che mi scandiscono il tempo, un po' tutto assieme. Credo che in quel periodo sia anche migliorato il mio rapporto con l'Elena un po', perché io mi ero un po' pacificata, quindi ero più autonoma, cioè non ero più quella che era arrivata a Firenze con l'Elena. Anche perché avevamo fatto scelte diverse, perché sai, quando sono arrivata a Firenze io avevo sempre un po' la stessa posizione, mi affidavo un po' anche alla sua interpretazione della realtà, perché era una realtà che non conoscevo, lì cominciai a farmi una mia idea sia rispetto al Kobagal, e cominciai a essere un po' più presente, anche perché quello che capitò, mentre a livello nazionale andava avanti un po' questo percorso, fu il tracollo di via San Zanobi, che coincise più o meno, perché tutto accadde quell'anno anche lì, che deve essere poi il 97. Qua... Noi l'abbiamo lasciato, siamo stati un anno e mezzo, quindi è finito nel 98 inoltrato. Esatto, fu il 97 quello in cui si andò in San Zanobi, ovviamente dove si cominciarono a fare le riunioni Cobag in San Zanobi. Io mi ricordo, no, la prima iniziativa si fece a sede vuota, l'ultimo dell'anno, tra il 96 e il 97 si fece lì la festa, e te eri Repubblica Dominicana. No, perché la festa io c'ero. C'eri? C'ero, perché fu la festa in cui venne la Daniela Danna, e la, non è ti quella. Sbagli. Allora te non c'eri. Allora forse un altro ricordo che ho. Te non c'eri perché io ero da sola a San Donnino, ho la febbre alta e andai a fare la barista imbottendomi. Di qualsiasi cosa. Vabbè. Senti Graziella, allora, quindi Kobagal e... nasce poi Azione Gay Lesbica in questo momento? Già. Sì. Sì, già, questo non l'hai detto. Sì, cioè, perché appunto, mentre a livello nazionale succede questo, poi vabbè, lì per lì avevano già ste tessere e si parlava di tessere. Questi circoli che si riunirono, oltre a prendere il nome comune Kobagal, decisero tutti di uscire dall'arcicarci lesbica. Mm-hmm. Quindi noi uscimmo dall'arcicarci lesbica all'unanimità, in assemblea. Sì, sì. Sì. Anche quelle di Arcilesbica votarono all'unanimità e si assunse questo nome, preso un po' per caso. Sì, che poi, perché poi ogni circolo cambia nome, infatti vedi anche da quello chi uscì allora dall'Arcilesbica, perché il circolo Arcilesbica di Verona divenne il circolo Pink, che era il secondo nome, il Pink, ma era il circolo Arcilesbica di Verona. Torino era il secondo nome, Maurice, era il circolo Arcilesbica di Torino, che rimase Maurice. Il Sassari Diventò Movimento Omosessuale Sardo. Diventò MOS. Strano. Sì. Catania divenne Open Mind. Quelli che uscirono, ognuno fece la sua scelta anche di nome. Non bisognava cambiare nome. Ma Azione Gay, Arcigay, Arcilesbica di Firenze, non aveva un secondo nome come avevano quell'altri. Mm-hmm. Anzi, ce l'aveva, ma era vecchio, di quando si chiamava ancora Arcigay. Nello statuto non ce l'avevamo più. Era stato tolto, che era Circolo David. Ora, di chiamarci Circolo David proprio non ci pareva del caso. E mi ricordo una riunione infinita che durò un giorno o anche due per questo nuovo nome. Certo. Dove vennero fuori le cose più improbabili. Cioè, alla fine, non so, passò Azione Gay Lesbica Finisterre, che non si chiamò mai Finisterre, cioè, però ci piaceva, rimase Azione Gay Lesbica, che poi in più posti ci dissero, ma noi quando abbiamo visto Azione Gay Lesbica, madonna, i fasci hanno fatto un circolo gay lesbico, perché Azione, sì, certo, non so come... No. Proprio in quel momento erano diventati Azione Giovani. Sì, forse sì, noi non ci se ne accorse, ecco, Azione aveva il significato... movimentista in qualche modo, no, certo, facciamo le azioni e non stiamo lì a fare i comunicati stampa. E quindi ci fu questo cambio di denominazione e nacque come Azione Gay Lesbica. Subito dopo esplose comunque anche la conflittualità. E si decise di essere un circolo ARCI, ci si federò all'ARCI. Sì, sì, sono andato a parlare con l'ARCI, quindi anche per rimanere in un territorio, cioè comunque demarcare un territorio che si era comunque a sinistra, cioè perché poteva succedere qualsiasi cosa, quindi almeno quello, anche per differenziarci dall'Arcigay, che comunque faceva tessere Arcigay Arcilesbica, che avevano fatto fino a quel momento. Tutti i circoli si tesserarono ARCI, non solo Sì, secondo me fu una di quelle cose che ci si scambiò come idea nelle varie riunioni Cobagal, quindi si fecero una serie di cose in comune, tra cui questa di essere un circolo ARCI, che ci permise poi di mantenere comunque una relazione con le case del popolo, eccetera. Comunque, fatto questo, all'interno del circolo scoppiò un'altra questione, che io non lo so se loro se l'aspettavano, però era nell'aria, secondo me, da tempo, ancora da prima, e che poco aveva a che fare con le questioni nazionali, che era la questione del consultorio. Cioè, vale a dire, tutti